Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Con il no alle centrali nucleari, gli italiani hanno fatto una scelta precisa a favore di rinnovabile ed efficienza energetica. È una scommessa perché oggi viviamo di gas e di petrolio, staccando tra l'altro assegni per decine di miliardi ogni anno ai paesi produttori, e le rinnovabili però non sono ancora pronte a sostituirli massicciamente. Però l'efficienza energetica lo è, e il trend delle rinnovabili fa decisamente ben sperare. E mentre la Germania pianifica di produrre l'80% di energia da fonti rinnovabili nel 2050, l'Italia si è finora limitata a svolgere quasi sempre all'ultimo secondo il compitino assegnatole dall'Europa. Non c'è un piano energetico nazionale, l'ultimo risale agli anni 80. Allora, a partire da stasera e per tutta la settimana, cercheremo di raccontarvi l'Italia senza nucleare e di rispondere ad alcune domande cruciali. Cominciamo questa sera con una domanda precisa: c'è una fonte rinnovabile disponibile in Italia che può davvero sostituire il nucleare? Noi riteniamo di sì, e questa fonte non è né il sole né il vento, ma è l'energia geotermica. Ne parliamo anzitutto con Giuseppe De Bellis, ricercatore di Nomisma Energia. Buonasera De Bellis. Buonasera a lei che ci ascolta. Allora De Bellis, spieghiamo subito una cosa: cos'hanno in comune nucleare e geotermico? Sono due metodologie di generazione elettrica che sono ideali per sopperire a quello che si chiama il carico di base, cioè quello zoccolo duro di energia elettrica che viene richiesta sempre, giorno e notte, tutti i giorni dell'anno. Insomma, il geotermico risponde alle stesse esigenze del nucleare. A quanto ammonta però l'installato in Italia di geotermico attualmente? Allora, alla fine dell'anno scorso erano 843 megawatt elettrici installati, circa l'1,5% del fabbisogno elettrico, per intenderci. E però è una situazione abbastanza stazionaria da decenni, insomma, è cambiato poco. Sì, è cambiato pochissimo, perché nel 1990 erano 550 e siamo riusciti faticosamente a salire, mentre altri paesi con la stessa tecnologia hanno avuto crescite spaventosamente superiori. Quali sono le stime che si possono fare sul potenziale italiano di questa fonte di energia, la geotermia? Parliamo di produzione di energia elettrica, naturalmente. Ma bisogna distinguere fra il potenziale a terra, come si suol dire onshore, che secondo i geologi ha un potenziale elettrico sempre di 5300 megawatt. Quindi 5 gigawatt e mezzo, quindi 6-7 volte quello che abbiamo. Sì, quindi per quanto riguarda la produzione elettrica potremmo arrivare sommando intorno all'11% del fabbisogno nazionale. Sì. Poi c'è il potenziale a mare e questo è decisamente più sensibile, perché a seconda delle stime si va dagli 8.000 ai 13.000 megawatt elettrici. Se questo entrasse in funzione potremmo arrivare a coprire anche il 30% dell'elettricità consumata in Italia. Quindi stiamo parlando di più di quello che era tutto il programma nucleare, ovviamente con dei se, con dei punti di domanda, però parliamo di una cifra immensa. Sì, stiamo parlando di un qualcosa che è circa 3 volte quello che era il programma nucleare proposto in Italia. D'accordo. E tra l'altro ci sono anche dei segni concreti: il Tirreno in particolare è molto ricco di vulcani sommersi, e su uno di questi, il Marsili, ne abbiamo parlato qui a Mr. Kilowatt, si sta già portando avanti un progetto che mira a realizzare altri 800 megawatt da uno solo dei più di 10 vulcani che si trovano nel Tirreno. Dunque, De Bellis, finora abbiamo parlato di alta entalpia, ma negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova tecnologia che è la media entalpia, che permette di sfruttare temperature più basse. Sentite che cosa ci dice a tal proposito Maria Luisa Carapezza, ricercatrice dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è impegnato in molti luoghi del mondo proprio a sviluppare risorse geotermiche. Ascoltiamo. Vorrei ricordare che l'Enel ha realizzato in Nevada recentemente un impianto geotermico di media entalpia, trovando un fluido tra i 130 e i 150 gradi, quindi diciamo abbastanza basso. Diciamo, hanno installato una potenza di 65 megawatt elettrici, che è sufficiente per rendere autonome 40.000 famiglie, che mi sembrano risultati notevoli. Ma tutto questo purtroppo viene fatto all'estero e non in Italia. Insomma, sembra proprio che la media entalpia potrebbe aprire un altro territorio largamente inesplorato. Qualcosa comunque sembra che si stia muovendo anche in Italia. Ce ne parla Antonio Martini, che è direttore dell'Ufficio Nazionale Idrocarburi e Georisorse, appartenente al Ministero dello Sviluppo Economico. La prima cosa che gli ho chiesto è se è vero che c'è un certo fermento attualmente. Ma certamente con la nuova regolamentazione derivante dalla legge sviluppo del 2009 si sono attivate tante richieste. Noi abbiamo attualmente 30 nuove istanze di permesso di ricerca e attualmente sono vigenti circa 20 permessi derivanti gran parte però all'ultimo anno e mezzo di esercizio. Che cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi, in cui invece c'è stato per un lungo periodo un sostanziale immobilismo? Beh, che abbiamo scontato inizialmente il passaggio di consegne dallo Stato alle regioni e poi anche con l'incremento del prezzo degli idrocarburi recentemente si è molto movimentata l'attività e poi soprattutto invece l'apertura alla concorrenza per le risorse a media ed alta entalpia, quindi quelle che erano le località storiche dell'Enel, che con la legge precedente venivano riservate unicamente all'Enel, con questa norma del 2009, in aderenza con quelle che sono le normative comunitarie, si è aperta al mercato e questo mercato sta rispondendo molto bene. Qual è oggi la situazione di visibilità che abbiamo sulle risorse geotermiche italiane? Esiste una mappa, un inventario? È completo? Noi abbiamo un inventario che è datato fine anni 80, inizi 90. Adesso con questa nuova norma del 2009 stiamo cercando di aggiornare questi dati e certamente le sfide sono aperte perché l'attuale situazione di 800 megawatt che vengono prodotti in Italia per la parte elettrica che sto parlando e che ci vedono sostanzialmente quarto paese nel mondo e a tecnologia attuale, a conoscenze attuali potremmo forse raddoppiarle, ma molto di più non penso che si possa fare. Certamente lei sa che l'Unione Geotermica Internazionale parla di 15 o 16 gigawatt in Italia? Ci sto arrivando, guardi, perché io le stime quelle conservative sono praticamente 7 e mezzo. Certamente se riuscissimo a mettere in campo nuove frontiere, quali ad esempio rilanciare le EGS, quindi Enhanced Geothermal System, quindi i sistemi geotermici secchi, e addirittura serbatoi di carattere magmatico, allora il discorso può cambiare sensibilmente, però qui stiamo parlando di frontiera. Abbiamo parlato fino all'altro ieri di nucleare, abbiamo discusso negli ultimi anni moltissimo di eolico, di fotovoltaico, degli incentivi che strozzavano o non strozzavano il mercato. Perché il geotermico è rimasto così largamente ignorato? Non è nemmeno entrato nella discussione. E neanche le associazioni ambientaliste, devo dire, si sono battute per il geotermico. Ma perché il geotermico è visto comunque come un'attività mineraria, come tale noi siamo considerati brutti, sporchi e cattivi. Dunque, De Bellis, io rifaccio l'ultima domanda che ho fatto a Martini, com'è possibile che nessuno abbia tirato fuori il geotermico e sia rimasto, l'abbiamo tenuto così in frigo, non ne abbiamo proprio neanche parlato? Sì, può sembrare particolarmente strano, considerato che da un punto di vista geotermico l'Italia si presenta come un territorio estremamente favorito. Probabilmente tutto questo dipende da scelte ormai molto vecchie che riguardano una contrattualità di lungo periodo delle nostre imprese energetiche e anche il fatto che sulla geotermia esistono minori spazi per interessi collaterali. Nel momento in cui la geotermia diventa l'elemento forse più interessante per la produzione energetica, ci stiamo facendo superare da tanti. Grazie Giuseppe De Bellis. Grazie a voi, arrivederci. Bene, per stasera ci fermiamo qui, domani continuiamo il nostro viaggio nell'Italia oltre il nucleare e parleremo di rinnovabili termiche. Buona serata.